Friuli nel mondo, 75esima trasmissione dedicata agli emigrati. Epifania in Friuli. In collaborazione con le Proloco di Tarcento, Cividale e Gemona, l'ente provinciale per il turismo di Udine ha voluto quest'anno ravvivare con particolare solennità le antiche tradizioni friulane dell'Epifania. Troviamo di nuovo anche quest'anno a San Lorenzo di Sedegliano, alla vigilia di questa solennità. E mentre le ragazze del paese suonano a distesa le campane, la gente accede alla chiesa, ove per antica usanza saranno tra poco benedetti l'acqua, il sale, l'aglio e le frutta. Vediamo infatti molte donne con i buins, sui quali ciondolano i secchi di rame pieni d'acqua, bambini con cestine sporte e piatti colmi di pere, mele, castagne, uva e aglio, e uomini pure con le scodelle piene di sale. Ora la cerimonia ha inizio. Il sacerdote scende i gradini dell'altar maggiore e dal presbiterio si accinge ad impartire la benedizione. Esorcizzo te, creatura acqua, in nomine dei Patris Omnipotentis, in nomine Jesu Christi, Filii Deus, Domini nostri, et in virtù de Spiritus Sancti. Amen. Mixtio salis et atra et pari del fiat in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ed è un laudato. Mattina dell'Epifania a Gemona. Mentre la folla dei fedeli di Gemona e dei paesi vicini sta accedendo al Duomo, vediamo muoversi dal palazzo Botoe, sede del municipio, le autorità, con al seguito una rappresentanza gemonese in costume del 400 e avviarsi tutti in chiesa per la tradizionale messa del tallero. Ecco ora, sul sagrato, una delegazione tarcentina in costumi del XII secolo. si inchina al giungere del corteo delle rappresentanze gemonesi. In questo momento una ragazza in costume offre al sindaco di Gemona un rawetz di uva ed un messaggero si fa avanti e svolge e legge una pergamena. Signor Sindic, amis di Glemone, o sin vignus di Tarcint, a non dai nestri sorestans e di tutta la popolazione, a pausi un augurio di buine epifanie. Vu, che ovest la giampane di Dante dal vostri domo, e che così ben os avestra mandà il simbol de ufiarta e sante mareglesie, con la messe dal talar, in quest biel puest che arriquarde una civiltà vecchia di sequi, sicuramente o tignescont anche del nestre fieste dal fu. Dai nestri spignarui giusgnot, indulà, può riguardarin che la flamme dai fogolars e dove anche illuminà un oroscopo di speranza. Us invidin ducchi a Tarcint. Fasin fieste insieme, une fieste furlane in onor dal Friuli. E che la vostre messe e i nestri sfux che disin insieme il nestri affiet pes nestri sbielis tradizion. Accettait, signor Sindic, che stra west di ue, tiut di consulis nestri sculinis e a ben riviodisi tra furlans dopo di misdì a Tarcint. Mentre la delegazione tarcentina, dati e ricevuti gli inchini di saluto, parte, le autorità di Gemona sono ora ricevute all'ingresso del Duomo dal cerimoniere ecclesiastico, che le accompagna sugli scanni riservati dell'altar maggiore. In questo momento siamo all'offertorio. Fra l'attenzione della folla, il sindaco si alza dal suo scanno e si dirige verso l'altar maggiore. Eccolo, sale un gradino dell'altare e depone il tallero su di un piatto d'argento sul quale sono incise le figure del Duomo e del castello di Gemona. Piatto che il diacono gli porge. Ecco, siamo ora a Cividale del Friuli e state ascoltando il bugul. È una specie di vaso panciuto di terracotta chiuso da una pelle tesa, in mezzo a cui è infisso un bastoncino che, suffregato dalle dita umettate di acqua, produce il suono del contrabbasso. È un motivo anonimo delle sacre rappresentazioni cividalesi del XIV secolo trascritte dal grande musicista Jacopo Tomadini di Cividale. Sotto le navate dell'antico Duomo si accalca la folla di fedeli e di turisti per la famosa messa dello spadone dalla suggestiva liturgia medievale. La messa solenne ha avuto inizio. Vediamo in quest'istante il diacono porsi in capo un piumato elmo di ferro e accingersi al canto del Vangelo. Oh. diacono si avvicina al presbiterio, impugna lo spadone del patriarca Marquardo, abbassa lo spadone sulla folla per 3 volte in segno di saluto e di protezione.